Bovini del Texas. Un pomeriggio Laura e papà erano seduti sulla soglia. La luna brillava sulla buia prateria, il vento taceva e papà suonava dolcemente il violino. Lasciò un'ultima nota vibrare in lontananza per poi dissolversi alla luce della luna. Tutto era talmente bello che Laura avrebbe voluto rimanere così per sempre. Ma papà disse che per le bambine era ora di andare a dormire. Poi Laura sentì uno strano rumore in lontananza. Che cos'è? Disse. Papà rimase in ascolto. Accidenti, bestiame, disse. Devono essere mandrie che vanno a nord verso Fort Dodge. Dopo essersi svestita, Laura, in camicia da notte, si affacciò alla finestra. L'aria era immobile, non si muoveva un filo d'erba e da lontano arrivava quel suono a metà tra canto e lamento. E un canto, pa? Chiese. Sì, disse papà, i cowboy cantano per addormentare gli animali. Ora vai a letto, furbetta. Laura pensava agli animali sdraiati a terra sotto la luce della luna e ai cowboy che cantavano loro una ninna nanna. Il mattino dopo, quando uscì di casa, c'erano due strani uomini a cavallo vicino alla stalla. Parlavano con papà. Erano di un marrone rossiccio come gli indiani, ma i loro occhi erano a mandorla con palpebre spioventi. Indossavano lembi di pelle sui pantaloni, speroni e cappelli a falda larga. Avevano fazzoletti legati intorno al collo e pistole ai fianchi. Salutarono papà, poi partirono al galoppo. Che fortuna! Disse papà a mamma. Quegli uomini erano cowboy, volevano che papà li aiutasse a tenere il bestiame lontano dai burroni del promontorio sopra il ruscello. Papà non aveva chiesto denaro, ma della carne. Ti piacerebbe un bel pezzo di bovino? Oh, Charles, disse mamma e le brillavano gli occhi. Papà si legò un grosso fazzoletto intorno al collo. Mostrò a Laura come poteva tirarlo su per proteggere il naso e la bocca dalla polvere, poi cavalcò patti verso ovest, lungo il sentiero indiano, finché Laura e Mary non poterono più vederlo. Per tutto il giorno il sole rovente brillò e il vento caldo soffiò e il rumore delle mandrie si avvicinava. Era un muggito indistinto e malinconico. Verso sera un polverone si alzò all'orizzonte. Mamma disse che tutti quegli animali calpestavano l'erba e sollevavano la terra della prateria. Papà tornò a casa a cavallo al tramonto coperto di polvere, aveva polvere nella barba, nei capelli, nelle pieghe delle palpebre e la polvere gli cadeva dai vestiti. Non portò nessun bovino perché la mandria non aveva ancora attraversato il ruscello. I buoi procedevano lentamente, fermandosi a brucare l'erba lungo il cammino. Dovevano mangiare abbastanza per arrivare belli grassi nelle città dove sarebbero stati venduti. Papà non parlò molto quella sera, né suonò il violino. Andò a dormire subito dopo cena. Ora la mandria era così vicina che Laura poteva sentirla distintamente. Il muggito malinconico risuonò per tutta la prateria fino a notte fonda. Poi gli animali tacquero e i cowboy cominciarono a cantare. Le loro canzoni non somigliavano a ninne nanne, erano acute, tristi e malinconiche come l'ululare dei lupi. Sdraiata nel letto, Laura ascoltava le tristi melodie che si libravano nella notte. In lontananza dei lupi veri ululavano. A volte i buoi muggivano, ma le canzoni dei mandriani continuavano a salire, a scendere e a gemere sotto la luna. Quando tutti furono addormentati, Laura si avvicinò furtivamente alla finestra e vide tre fuochi brillare come occhi rossi all'orizzonte. Sopra di essi il cielo era grande, immobile e illuminato dalla luce della luna. Le canzoni tristi sembravano implorare la luna, le fecero venire il mal di gola. Per tutto il giorno seguente Laura e Mary guardarono a ovest, sentivano gli animali muggire in lontananza e vedevano la polvere che si alzava. A volte sentivano un grido acuto, appena percettibile. All'improvviso una dozzina di bovini dalle lunghe corna spuntarono nella prateria, non lontano dalla stalla. Erano saliti su per una gola che scendeva al ruscello. Avevano le code dritte, agitavano le corna, pestando le zampe a terra. Un cowboy, in groppa a un cavallo chiazzato, galoppava come un forsennato per raggiungerli. Agitava il cappello e urlava a pieni polmoni: hi, hi! Gli animali si girarono e le loro lunghe corna si scontrarono. Con le code ritte galoppavano goffamente mentre il cavallo correva, girava loro intorno per tenerli raggruppati e correva. Laura correva su e giù, agitando la cuffia e urlando: hi, hi! Finché mamma non le disse di smettere. Non si addiceva una signorina a urlare così. Laura avrebbe voluto essere un cowboy. Nel tardo pomeriggio tre uomini a cavallo arrivarono da ovest con una mucca. Uno dei tre era papà, in groppa a patti. Piano piano si avvicinarono e Laura vide che accanto alla mucca c'era un vitello chiazzato. L'animale avanzava a grandi passi. Due uomini a cavallo lo precedevano, due corde erano legate alle sue corna e alle selle dei mandriani. Quando la mucca si dirigeva con le corna verso uno dei due cowboy, il cavallo dell'altro puntava i piedi e la tratteneva. La mucca strillava e il suo piccolo le faceva eco. Mamma guardava dalla finestra mentre Laura e Mary stavano a guardare appoggiate alla casa. I cowboy tenevano l'animale con le corde, mentre papà lo legava alla stalla, poi lo salutarono e se ne andarono. Mamma non poteva credere che papà avesse davvero portato a casa una mucca. Il vitello era troppo piccolo per viaggiare e la madre è troppo magra per essere venduta, così i cowboy glieli avevano dati. Gli avevano dato anche la carne, ce n'era un grosso pezzo legato alla sella. Papà, mamma, Mary, Laura e persino la piccola Carrie ridevano di gioia. Papà rideva sempre forte, la sua risata era come un suono di campane. Quando era felice, mamma sorrideva dolcemente e a Laura si scaldava il cuore. Mamma ora stava ridendo perché avevano una mucca. Dammi un secchio, Caroline, disse papà. Voleva mungere subito la mucca. Prese il secchio, si tirò indietro il cappello e si accovacciò accanto alla mucca per mungerla. Lei si inarcò e con un calcio lo buttò a terra. Papà si rialzò con un'espressione arrabbiata e gli occhi che mandavano scintille. Ora, cascasse il mondo, la mungerò, disse. Prese l'ascia e affilò due tavole di legno. Spinse la mucca contro la stalla e infilò le tavole nel terreno accanto a lei. La mucca strillò e il piccolo urlò. Papà legò dei pali ai montanti e ne ficcò le estremità nelle fissure del muro della stalla per fare un recinto. Ora l'animale non poteva muoversi né in avanti né indietro né di lato, ma il piccolo poteva infilarsi tra sua madre e la stalla. Sentendosi al sicuro, smise di piangere. Rimase da quel lato della madre e succhiò il latte per il suo spuntino serale. Papà infilò le mani nel recinto e munse l'altro lato. La tazza di stagno era quasi piena. Riproveremo domattina, disse. Poverina, è un animale selvatico, ma la domesticheremo, la domesticheremo. Stava calando il buio. I caprimulghi cacciavano gli insetti all'ombra della sera. Le rane toro gracchiavano in riva al ruscello. Un uccello chiamava, un gufo rispondeva. In lontananza i lupi ululavano e Jack ringhiava. I lupi stanno seguendo la mandria, disse papà. Domani costruirò un bel recinto resistente nel quale non potranno entrare. Rincasarono tutti portando la carne. Papà, mamma, Mary e Laura decisero di dare il latte alla piccola Carrie. La guardarono mentre beveva. La tazza di stagno le copriva il viso, ma Laura vedeva la sua gola inghiottire il latte a sorsate. Un sorso dopo l'altro lo beve tutto. Poi si leccò i baffi con la lingua rossa e si mise a ridere. Ci volle un bel po' di tempo prima che il pane di mais e la carne sfrigolante fossero pronti, ma non avevano mai mangiato niente di più buono di quella carne soda e succosa, ed erano tutti felici perché d'ora in poi avrebbero avuto latte da bere e forse addirittura burro da spalmare sul pane. Il muggito della mandria di bovini era di nuovo lontano e le canzoni dei cowboy erano ormai quasi impercettibili. Tutto quel bestiame era ora dall'altra parte del ruscello, in Kansas. L'indomani avrebbero proseguito il loro lungo viaggio verso nord, in direzione di Fort Dodge, dove c'erano i soldati. L'accampamento indiano. I giorni passavano e ciascuno era più caldo del precedente. Il vento era caldo come se uscisse da un forno, diceva mamma. L'erba stava ingiallendo, il mondo intero era fatto di onde verdi e dorate sotto il cielo splendente. Nel pomeriggio il vento cessò, gli uccelli tacquero. Tutto era così immobile che Laura poteva sentire gli scoiattoli chiacchierare tra gli alberi giù al torrente. All'improvviso dei corvi neri volarono sopra di loro, gracchiando con una voce acuta e minacciosa. Poi tutto tornò immobile. Mamma disse che era piena estate. Papà si chiedeva dove fossero finiti gli indiani. Disse che avevano lasciato il loro piccolo accampamento nella prateria e un giorno chiese a Laura e Mary se volevano andare a vederlo. Laura saltava e batteva le mani, ma mamma obiettò: È così lontano, Charles, disse, e con questo caldo. Gli occhi blu di papà luccicavano. Questo caldo non fa male agli indiani e non farà male nemmeno a noi, disse. Su, bambine. Per favore, possiamo portare anche Jack? Chiese Laura. Papà aveva preso il fucile, ma guardò Laura e poi Jack, e poi guardò mamma e appese il fucile. Va bene, Laura, prendo Jack. Caroline, ti lascio il fucile. Jack saltellava intorno a loro agitando la sua piccola coda. Appena vide in che direzione andavano, si avviò trottando davanti a loro. Dietro di lui c'era papà, poi Mary e infine Laura. Mary aveva la cuffia in testa mentre Laura la lasciava penzolare dietro la schiena. Il terreno era rovente sotto i piedi scalzi. La luce del sole attraversava i loro vestiti sbiaditi e bruciava sulle braccia e sulla schiena. L'aria era calda come quella di un forno e aveva un vago odore di pane. Papà disse che quell'odore veniva dai semi dell'erba che seccavano al sole. Andarono sempre più lontano nella vasta prateria. Laura si sentiva sempre più piccola, persino papà non sembrava poi così grande. Alla fine arrivarono nella piccola valle in cui gli indiani si erano accampati. Jack balzò su un grosso coniglio. Quando saltò fuori dall'erba, Laura sobbalzò. Papà disse in fretta: "Lascialo, Jack, abbiamo abbastanza carne." Così Jack si sedette e guardò il coniglio saltare via lungo la valle. Laura e Mary si guardavano intorno. Stavano vicino a papà, ai lati della valle crescevano cespugli bassi, arbusti puntinati di bacche rosa e scotani con pigne verdi e qualche foglia rosso vivo qua e là. I contorni delle asterace stavano diventando grigi e i petali gialli delle margherite penzolavano intorno al centro. Tutto questo era nascosto nella piccola valle segreta. Da casa Laura non vedeva nient'altro che erba e ora da questa piccola valle non si vedeva la casa. La prateria sembrava piatta, ma non lo era. Laura chiese a papà se c'erano molte valli come quella nella prateria. Papà disse di sì. Sono abitate dagli indiani? Chiese sottovoce. Papà disse che non lo sapeva, forse. Gli teneva stretta la mano e Mary gli teneva l'altra mentre guardavano l'accampamento degli indiani. C'era della cenere dove avevano acceso il fuoco, c'erano buchi nella terra dove avevano conficcato i pali delle loro tende, c'erano ossi rosicchiati dai cani sparsi in giro. Lungo i lati della valle i cavalli degli indiani avevano broccato dappertutto. Dappertutto c'erano tracce di grandi mocassini e di piccoli mocassini e impronte di piccoli piedi nudi, e sopra queste impronte c'erano quelle di conigli, uccelli e lupi. Papà interpretò le impronte per Mary e Laura, mostrò loro le tracce di due mocassini di taglia media vicino alla cenere. Una donna indiana si era accovacciata lì, indossava una gonna di pelle con le frange, c'erano le piccole tracce delle frange sulla cenere. Le impronte erano più profonde nella punta del piede che nel tallone, probabilmente si era sporta in avanti per mescolare qualcosa che stava cuocendo in una pentola sul fuoco. Poi papà prese un ramo biforcuto e annerito, disse che la pentola era stata appesa a un bastone appoggiato su due rami come quello. Mostrò a Laura e a Mary i buchi dove i due rami erano stati infilati nella terra. Poi disse loro di guardare gli ossi che erano sparsi a terra e di dirgli cosa era stato cucinato nella pentola. Guardarono e dissero: "Coniglio!" Era giusto, erano ossi di coniglio. All'improvviso Laura gridò: "Guardate, guardate!" Qualcosa di un blu vivo brillava in mezzo alla cenere. Lo raccolse, si trattava di una bellissima perlina blu. Laura urlò di gioia, poi Mary ne vide una rossa e Laura una verde e dimenticarono tutto il resto. Papà le aiutò a cercare, trovarono perline bianche, perline marroni e poi ancora rosse e blu. Per tutto il pomeriggio cercarono le perline tra la cenere del campo indiano. Di tanto in tanto papà saliva in cima alla valle e guardava verso casa, poi tornava giù e li aiutava a cercare altre perline. Guardarono dappertutto e con molta attenzione. Quando non ne trovarono più, era quasi il tramonto. Laura aveva una manciata di perline e anche Mary. Papà le mise nel suo fazzoletto annodato, le perline di Laura in un angolo e quelle di Mary in un altro. Si mise il fazzoletto in tasca e ripartirono verso casa. Il sole era basso alle loro spalle quando uscirono dalla valle. La casa era piccola e molto lontana e papà non aveva il fucile. Papà camminava così in fretta che Laura riusciva a malapena a tenere il passo. Andava più veloce che poteva, ma il sole andava più in fretta di lei e la casa sembrava lontana, lontanissima. La prateria sembrava ancora più grande e il vento la percorreva mormorando qualcosa di spaventoso. Persino l'erba sembrava spaventata. Poi papà si voltò e guardò Laura. I suoi occhi blu scintillarono. Disse: "Sei stanca, scricciolo? È una lunga strada per le tue piccole gambe." La prese in braccio, anche se era ormai grande, e se la mise in spalla. Prese Mary per mano e tornarono a casa tutti insieme. La cena stava cuocendo sul fuoco. Papà agitò il fazzoletto davanti a mamma. "Ho fatto tardi, Caroline," disse, "ma guarda cosa hanno trovato le bambine." Prese il secchio del latte e andò a slegare Pet e Patty a mungere la mucca. Mamma slegò il fazzoletto e E rimase a bocca aperta. Le perline erano ancora più belle di quanto lo fossero al campo indiano. Laura mescolava le sue con un dito e le guardava brillare e scintillare. Queste sono mie, disse. Poi Mary disse: Carrie può avere le mie. Mamma aspettò di sentire cosa avrebbe detto Laura. Laura non aveva niente da dire, voleva tenere per sé quelle belle perline. Sentì il suo cuore scaldarsi. Avrebbe voluto che Mary non fosse sempre così buona. Non poteva lasciare che fosse migliore di lei. Così disse lentamente: Oh, può avere anche le mie. Ma che brave bambine generose, disse mamma. Mise le perline di Mary nelle mani di Mary e le perline di Laura nelle mani di Laura e disse che avrebbe dato loro un cordino per infilarle. Con quelle perline avrebbero potuto fare una bella collana per Carrie. Mary e Laura sedettero fianco a fianco sul loro letto e infilarono quelle belle perline nel filo che mamma aveva dato loro. Entrambe inumidirono l'estremità con la bocca e lo girarono stretto stretto. Poi Mary infilò l'estremità del cordino nel piccolo foro di ciascuna perlina e Laura fece altrettanto. Non dissero nulla, forse Mary si sentiva bene, ma Laura no. Quando guardava Mary avrebbe voluto schiaffeggiarla, per questo evitava di guardarla. Con le perline fecero una bellissima collana. Carrie batté le mani e rise quando la vide. Poi mamma gliela legò intorno al collo. La collana brillava. Laura si sentì un pochino meglio. Dopotutto non aveva abbastanza perline per fare una collana e neppure Mary. Ma insieme le perline formavano una bellissima collana per Carrie. Quando Carrie sentì le perline intorno al collo, le afferrò. Era così piccola che finì per romperla, così mamma la slegò e mise via le perline finché Carrie non fosse stata abbastanza grande per indossarle. Spesso Laura pensava a quelle belle perline e desiderava egoisticamente di averle per sé. Ma era stata una giornata meravigliosa. Poteva sempre pensare a quella lunga camminata attraverso la prateria e a tutto quello che avevano visto al campo indiano.